Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. L'inizio di questa trasmissione è ispirato da una mia folle visione. Folle visione nel senso di cose che ho visto in televisione, passando le notti a guardare telefilm, e riflessioni che ho fatto. È la rappresentazione degli uomini del futuro. Gli alieni in tutti i film di fantascienza, in cui si dà per scontato e si presuppone che sono i nostri progenitori, che alla fine l'umanità altro non è che una sorta di inseminazione di DNA alieno in una genia di bruti e siamo venuti fuori noi. Sono fisicamente simili a noi, quindi si vede che abbiamo dei tratti del DNA in comune, ma hanno delle mutazioni, sono diversi. Sono diafani, non hanno lineamenti marcati come i nostri, ma soprattutto negli arti sono diversi. Hanno braccia sottilissime, hanno mani o inesistenti o lunghe adunque, con dita sottilissime. Insomma, gli alieni si vede chiaramente, hanno dei grossi capoccioni, che lavorano soprattutto di testa, che la generazione più avanzata della nostra civiltà, ma sto parlando per paradossi, non prendetemi sul serio, ha una mutazione anche fisica. Noi sappiamo di essere mutati fisicamente, lo vedranno con certezza anche i fortunati 250 dei nostri ascoltatori che fra non tanti giorni, il 25 gennaio, mi seguiranno al MUDEC di Milano a vedere le meraviglie dell'Homo sapiens. Beh, io la mostra già l'ho visitata e ho visto com'erano i nostri progenitori, totalmente diversi da noi, o erano piccolissimi, quasi dei nanerottoli, ci arrivavano se no alla cintura, o erano giganteschi, ma anche lì erano molto diversi, avevano mani e piedi molto sviluppati, grossi, una muscolatura diversa, erano coperti di peli, insomma anche noi rispetto al passato ci siamo evoluti naturalmente, perché usiamo in maniera specifica e diversa i nostri arti e anche la nostra testa, e quindi ci siamo adattati al territorio in cui siamo. La pelle da nera ci è diventata bianca in alcune latitudini del nostro pianeta, in altre è rimasta nera, siamo diventati più o meno, con delle muscolature più o meno efficienti, le mani sono diventate molto più specifiche, specializzate, nella maggior parte della parte più civilizzata, più ricca, più industrializzata dell'umanità, le mani anche degli uomini sono delle mani da signorine, perché non fanno più lavori manuali, non esistono più i calli, non esistono più quelle mani rovinate per il lavoro manuale. Se guardavo le mani di un contadino degli anni 50 e 60, beh, oggi è imparagonabile, non esiste più una mano del genere, ma anche soltanto di un fabbro, di un falegname. I falegnami erano tutti senza dita, perché si usano delle seghe senza protezione, naturalmente saltano le dita. Il falegname è la persona a cui mancavano delle dita. Rispetto a questo dobbiamo osservare quale potrebbe essere la nostra evoluzione, visto che abbiamo cambiato molto dei nostri usi pratici quotidiani, e quindi cambiando gli usi quotidiani cambiamo anche nel fisico. Uno dei campi in cui mi sto rendendo conto che ci stiamo producendo meno è proprio quello dello scrivere. All'inizio avete sentito la famosa lettera di Totò e Peppino e la mala femmina, la lettera in cui Totò e Peppino cercano in qualche maniera di riportare a miti consigli la donna che pensavano avesse fuorviato il loro nipote figlio studente, in realtà non era esattamente così. È divertente proprio perché è scritta da due semi-analfabeti, da persone che non conoscono l'uso della penna e della carta, hanno un po' impapocchiato, hanno qualche ricordo di scrittura. E poi esistono altri esempi. L'esempio di una possibilità di umanità postumana, il famoso replicante di Blade Runner, lo ricordate, quando parla con il suo creatore, che gli dice che lui vorrebbe vivere anche se il meccanismo che gli dà la vita è un meccanismo orologeria, finirà a un certo punto, e dice: non c'è una maniera per salvarmi? E lui dirà: no, non c'è nessuna maniera, hai vissuto una vita che nessun essere umano ha potuto vivere, quindi ti spegnerai anche prima. E lui naturalmente ha una grande nostalgia di quello che è l'umanità, con tutti i suoi limiti e con tutte le sue manchevolezze. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità, ma non per durare. La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo e tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti, Roy. Guardati. Tu sei il figliol prodigo. Sei motivo d'orgoglio per me. Melog. Cronache meridiane. Il professor Benedetto Vertecchi ha insegnato nell'Università di Sassari, Ferrara, La Sapienza e Roma 3, direttore di CADMO, giornale italiano di pedagogia sperimentale, ha diretto una ricerca interessante, una ricerca sperimentale, che è stata raccolta in un libro di Franco Angeli, Bambini e la scrittura, l'esperimento Nulla dies sine linea, coordinamento di Gabriella Grusti e Cinzia Angelini. Allora, professor Benedetto Vertecchi, sembra una tesi assolutamente controcorrente rispetto alle dinamiche che osserva ogni genitore di bambini, di adolescenti, il fatto che si debba ritornare a una scrittura manuale. Qual è la sintesi di questa ricerca riguardo questo tema? Guardi, questa ricerca è nata dalle segnalazioni sempre più frequenti di insegnanti della scuola elementare, ma anche delle scuole secondarie, circa le difficoltà che i loro allievi incontrano nello scrivere. Perché sono sempre meno abituati a controllare il movimento della penna, a dirigerla correttamente, a impugnarla con le tre dita secondo il metodo più consolidato, ma anche più comodo e più sicuro per tracciare i segni, per cui il passaggio ad altre forme di scrittura, tipicamente quelle digitali, ha significato una perdita di manualità fine. Ma perché arrivano che sono già, diciamo, condizionati in qualche maniera a lavorare su uno schermo, su una tastiera? Sono abituati a usare dispositivi digitali, dai videogiochi, qualche volta anche ai telefonini. Questo dalle elementari, chiaramente. Sì, già nelle elementari. I bambini già in terza elementare, quindi bambini di 8-9 anni, già presentano i segni della caduta della capacità di scrittura manuale. Allora, qui non è una questione, come spesso viene presentata, di alternativa a scrittura manuale sì, scrittura manuale no, scrittura digitale sì e così via. Non è questo il problema. Il problema è un bambino che cresce, di che cosa ha bisogno? Ecco, un bambino che cresce ha bisogno, indipendentemente dalla scrittura, di acquisire una manualità fine e un buon coordinamento fra la percezione e l'azione. Questo comporta esperienze tridimensionali complesse e la capacità di controllare ciò che si fa attraverso il processo in cui questa azione si sviluppa. Ecco, scrivendo tutto questo è evidente, usando dispositivi automatici tutto questo non è evidente, anzi è sempre meno evidente, tant'è vero che i bambini non sono più in grado di prescindere dall'utilizzazione dello strumento per ottenere un risultato. Quindi no, vanno considerando perdendo... che poi diciamo anche gli strumenti meno sofisticati hanno tutti un correttore all'interno, hanno un sistema di semplificazione, certo. Memorizzano delle parole, ma i bambini hanno la percezione che in realtà sia ormai un esercizio che appartenga al passato, fanno questo pensiero, a me ormai cosa mi serve più saper scrivere a mano, e questa forse è la base. Guardi, però questo è un problema che non è soltanto legato alla didattica o all'uso di tecnologie per l'educazione, questo è un problema di mercato. Tanto è vero che scuole di altissimo livello, di altissimo costo anche per i genitori in giro per il mondo, non prevedono l'utilizzazione di mezzi digitali, anzi addirittura li escludono fino a una certa età, proprio per il ragionamento che stavamo facendo prima. Se noi guardiamo i nostri bambini oggi hanno gravi problemi di manualità fine. La manualità fine non ha a che fare con la tecnologia, ha a che fare con lo sviluppo, è qualcosa di molto più importante. Faccio capire qualche esempio, non sono capace a svitare una vite, a fare i lavori manuali che hanno i giochi facciamo noi da piccoli. Lei va sul sofisticato, non sanno usare le forbici e quindi moltissimi insegnanti di scuola dell'infanzia mi dicono non possiamo fare più i collage a scuola. Cioè non sono capace a usare le forbici per tagliare. Per tagliare, non si sanno allacciare le scarpe, che pure è una cosa che segna l'autonomia dei bambini. Non riescono a tenere dritto un cucchiaio perché semplicemente le mode consumiste a base di merendine non lo richiedono più. Ossia, stanno perdendo elementi che sottraggono autonomia. La scrittura digitale per i bambini, io non sto dicendo la scrittura digitale per gli adulti, sto parlando dei bambini. Io fra l'altro ci tengo a ricordare che mi sono sempre occupato di sistemi digitali fin dalle origini. Ricordo che ho fatto il primo corso di programmazione superiore nel 62. Quindi diciamo non è una battaglia passatista questa ricerca. No, non è assolutamente una battaglia. Cioè è un grido d'allarme su una reale emergenza. Un'emergenza dello sviluppo infantile. Che poi si riflette anche sugli adulti, però ho visto dati recenti dai quali compare questa situazione. Tradizionalmente i ragazzi che uscivano da scuola erano quelli più forniti di capacità verbali e capacità di scrittura, di comprensione del testo scritto. Adesso questa situazione si va modificando, la fascia di età meglio attrezzata non è più quella da 18 verso i 30 anni, ma è quella che dai 30 anni va verso i 40. Quelli che ancora diciamo hanno avuto una scuola analogica, così tanto per capirci. Già, in cui l'attività di scrittura veniva interiorizzata più profondamente. Del resto anche l'esperimento Nulla Dies Sine Linea, che poi riprende questo nome da Plinio il Vecchio, che a sua volta l'aveva ripresa da Apelle, il grande pittore. Apelle che diceva: se non dipingo tutti i giorni poi non so più dipingere. Si perde la mano, come si diceva una volta. Si perde la mano, ecco. Anche nel linguaggio si perde la mano in un certo senso. È una metafora, ma è una metafora importante. Quindi se uno volesse, in positivo, professore, fare delle proposte, bisognerebbe innanzitutto lavorare nella didattica scolastica, che ancora è comunque improntata su una scrittura manuale. Io, mio figlio ha finito il liceo 3 anni fa, fino all'ultimo anno di liceo faceva ancora i compiti a mano. È stato fortunato, perché adesso in moltissime scuole secondarie invece in furia è copia e incolla, per cui non scrivono più neanche il loro nome. Purtroppo è qualche cosa di incontrollato, specialmente se viene presentato come un fattore di progresso. In sé a me va benissimo quello che racconta Singer nello Schiavo, in cui il personaggio principale usava a scrivere sulle rocce con un pezzo di ferro. Comunque si scriva va bene, purché si scrive e purché si sia autonomi in quello che si fa. Ecco, l'autonomia viene sottratta dal complicarsi della mediazione richiesta. Ma è una sorta, mi faccio capire, quasi di educazione fisica. Ormai la scrittura corrisponderebbe, per sommi capi, a quello che una volta era l'educazione fisica, una capacità di coordinamento tra pensiero, fra corpo. Sì, guardi, lei ha fatto un esempio che è calzante. Perché oggi che i trasporti sono molto più avanzati di mezzo secolo, un secolo fa, si sostituisce il movimento che non si fa più per muoversi, per andare da un posto all'altro, con attività fisiche tipo la corsa, le gare podistiche, oppure il trekking, insomma altri modi. I bambini devono andare in palestra, fare attività fisica, perché a scuola tanto a piedi non ci va più nessuno. Sì, ma neanche nella vita quotidiana, non è soltanto la scuola, i bambini non vivono poi tutto 24 ore a scuola. Ossia, le abitudini sociali si intersecano strettamente con quelle scolastiche. e finiscono con spesso prevalere, non so, la scrittura aiutata che c'è nei telefonini, quella finisce col sostituire la competenza grammaticale. Le faccio un esempio, non so se è pertinente, professore, ma io mi ricordo i giochi classici fino a 4-5 generazioni fa. Erano giochi che comunque imitavano alcuni mestieri e insegnavano a usare le mani, il meccano, il traforo. Io, la mia generazione di sessantenni, comunque sa cambiare un interruttore, cambiare una lampadina, aggiustare un rubinetto, perché lo facevamo per gioco da bambini, ci regalavano queste cose. Oggi mio figlio ventenne non è capace nemmeno a svitare una lampadina, non sa da che parte deve girarla. È un po', cambia anche, allargando un po' il discorso dalla scuola anche alla vita quotidiana. Questo che mi preoccupa molto, questa incapacità più a usare le mani. Abbiamo perso quasi la facoltà del pollice opponibile, che era quello che ci distingueva comunque dai nostri progenitori più arretrati. Ecco, la sua preoccupazione è anche la mia, e anche quella che è stata la base dell'esperimento Nulla Dies Sine Linea, che ora sta continuando con altre due linee di attività. Una l'ho chiamata verba sequentur, ossia il linguaggio per fare, le parole per fare, la scrittura per fare. E la terza l'ho chiamata in interiori puero, ossia come il bambino diventa autonomo e sviluppa la sua autonomia scrivendo, sviluppando il linguaggio scritto. L'insieme di tutte queste linee di ricerca sono in un contenitore che ho definito in Intellectual in Sensu, quindi riprendendo un po' Comenio e un po' Locke. L'idea qual è? Che non bisogna ragionare in termini alternativi. Oggi troppo spesso la tecnologia ha più una logica da marketing che da sviluppo. Se andiamo avanti per questa strada diventeremo dei perfetti utenti dei nostri strumenti elettronici, ma ci troveremo poi con delle mani che sappiamo usare male. Questo secondo me è un passo indietro notevole della nostra catena evolutiva. La ringrazio, professor Vertecchi, ci sentiamo alla prossima. Grazie a lei, buongiorno. Good morning. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13:30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog, cronache meridiane. Abbiamo poco fa sentito il professor Benedetto Vertecchi che ha lanciato un grido d'allarme riguardo alla capacità che oggi stanno perdendo i bambini dell'uso attivo e specifico delle loro mani. Perché? Perché non scrivono più a mano. Hanno in mano degli strumenti digitali di scrittura sin dalla tenera età. E secondo il gruppo di studio del professor Vertecchi, il pericolo è che gradualmente perderemo molte delle nostre facoltà umane proprio di saper agire con i nostri arti, proprio perché non scriviamo più. Voglio sentire adesso un parere che in qualche maniera, non voglio dire contrapposto, ma comunque ragiona con un altro tipo di respiro, quello di Stefano Morigi. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Gianluca. Stefano Morigi, che ascolta Mergo, lo conosce, con il nostro ospite abbastanza consueto, ha scritto un libro la cui edizione italiana è curata appunto da lui e da Paolo Ferri, di Perguerini Scientifica, Il bambino e gli schermi, raccomandazioni per genitori e insegnanti, un libro che è stato edito dall'Accademia delle Scienze di Francia, quindi da persone che hanno strumenti didattici altrettanto raffinati per capire la situazione, che dovrebbe teorizzare in realtà delle raccomandazioni per l'uso degli schermi, non per la negazione o per l'abuso degli schermi. Stefano Morigi, come la pensi innanzitutto te sulla possibilità di perdere delle nostre qualità manuali scrivendo meno? Allora, premetto che non ho ancora letto, lo farò di sicuro, lo studio in questione di cui avete parlato nel blocco precedente. Certamente tocca un problema centrale, cioè il rapporto nostro, nella fattispecie delle nostre mani, con gli strumenti, un rapporto che è molto antico, che sicuramente va molto più lontano nel passato rispetto alla nostra esperienza della scrittura, un rapporto, il nostro, delle nostre mani con gli strumenti, che ha scandito il nostro modo di abitare l'ambiente, di condizionare l'ambiente, e condizionando l'ambiente condizioniamo ovviamente anche noi stessi, di comunicare con gli altri e di inscriverci in pratiche, in etiche di vita che di volta in volta hanno contraddistinto il nostro modo di essere e di dirci umani. Quindi sicuramente questo studio tocca un problema centrale, che è il nostro rapporto con gli strumenti, e nella fattispecie con gli strumenti attraverso i quali abbiamo costruito e sofisticato l'esperienza della scrittura. Ecco, ma nella scuola, in giro, nella scuola tu hai curato l'edizione italiana di un libro fatto all'Accademia delle Scienze di Francia, ma conosci bene anche la situazione sia nazionale sia di altri paesi. Come viene affrontato il problema che i ragazzi in effetti mentalmente sanno che comunque la scrittura manuale sarà qualcosa che, di cui avranno sì bisogno fino a un certo punto, perché per tutto il resto della loro vita sanno e continueranno comunque a usare degli schermi per scrivere, delle tastiere? Sai, la situazione nelle scuole è diversa di stato in stato, a volte anche di regione in regione all'interno dei singoli stati. In Italia la pratica della scrittura, quella tradizionale, per intenderci analogica, è ancora predominante. Le esperienze di didattica aumentata dalle tecnologie sono ancora quelle ben fatte, quelle ben costruite, pionieristiche, e dunque è anche un po' difficile valutare l'impatto di un inserimento sensato di queste tecnologie, essendo ancora così in nuce per molti versi. Certo, ci sono altri paesi invece un po' più avanti, un po' più disinvolti, potremmo anche dire, in questi territori, come per esempio la Finlandia, se ne è parlato molto anche in Italia sui giornali italiani, che hanno come dire, non reso facoltativo ma non più materia principale la scrittura e la calligrafia. Questo ha sollevato appunto diversi dibattiti, ma dietro c'è una preoccupazione seria. Nel momento in cui noi introduciamo una nuova tecnologia e una nuova pratica o nuove pratiche di scrittura come appunto quelle digitali, dobbiamo anche preoccuparci di costruire setting didattici, percorsi formativi che rendano sensati, creativi e quant'altro quegli strumenti. Non possono essere affidati a se stessi o comunque all'ingenuità e alla disinvoltura di ragazzi che le acquisiscono nelle loro case o nelle camerette insieme ai loro compagni senza una guida. Cioè, non dovrebbe essere così facile regalare un tablet o uno smartphone e dire adesso arrangiati e dire mio figlio guarda quanto è bravo. Io ho sentito madri vantarsi, essere fiere che di bambini di pochi mesi già gli metto in mano un tablet e già fa il gesto per girare pagina, che ha capito come si fa. Beh, certo, abbastanza normale. È un grande equivoco, no? Da un lato l'abilità del bambino di interagire con uno strumento e di impratichirsi delle logiche sulle basi delle quali questo strumento è stato costruito, benissimo, ma la disinvoltura acquisita sul campo, diciamo, da questo bambino non corrisponde certo alla consapevolezza di un uso critico, costruttivo e creativo dello strumento. Io ti dirò una cosa, in questo senso noi dobbiamo investire. Dirò una cosa che ti farà rabbrividire: ho visto uno di quei video che girano nei social network a base di gattini, micini e cucciolotti, un gattino che sapeva girare videata con uno smartphone, aveva imparato con la zampina che se girava cambiava immagine e si divertiva come si divertiva con una palletta di lana, alla stessa maniera. Non mi sembra quello indicativo di una congenita familiarità con gli strumenti digitali? Assolutamente no, è l'evoluzione del mio gatto che di fronte alla televisione guardava un po' le immagini e poi andava dietro lo schermo cercando quei personaggi che non riusciva a toccare, appunto arrampicandosi sullo schermo. Ma bisogna, secondo me, prendere sul serio le nuove tecnologie, anche riguardo allo specifico della manualità. Non possiamo trascurare il fatto che si sta aprendo un orizzonte nuovo della manualità. E dunque tutto da studiare. Non è detto che sia la fine della manualità, fine o sofisticata, scusa il gioco di parole, ma dobbiamo rileggere o provare a intuire come in una nuova ontologia aumentata da queste macchine si svilupperà una manualità diversa. Sono d'accordo qui con Bertecchi che non va pensata in alternativa a quella cosiddetta tradizionale, perché non si pensa mai così all'interno dell'evoluzione delle tecnologie. Vanno pensate le riscritture delle pratiche, non la giusta posizione né la sostituzione. Quindi dovremo capire come evolverà la manualità e come noi dovremmo culturalmente accompagnare questa evoluzione. Ma guarda, questo è importante secondo me, Stefano, perché non è come dire, vedi, da quando hanno inventato il Black & Decker o il trapano elettrico non c'è più il vecchio trapano a manovella. Non è la stessa cosa, è che noi abbiamo cominciato a evolversi, a evolverci proprio quando abbiamo cominciato ad avere un attrezzo per le mani che è il pollice opponibile, quindi abbiamo cominciato a costruire qualcosa quando avevamo le mani per poterlo fare. Poi con le mani abbiamo costruito utensili che ci aiutavano nella costruzione e via dicendo. Ma è percepibile o concepibile, o perlomeno ci sono strumenti scientifici per capire se in una nostra successiva fase dell'evoluzione perderemo alcune delle nostre facoltà proprio fisiche di costruire e di fare a favore di una tecnologia che andrà a supportarle? Non credo a favore di una tecnologia. Ora, una rivoluzione, una evoluzione tecnologica porta sempre delle perdite così come delle acquisizioni. Cioè, l'invenzione dei termosifoni e delle case riscaldate ci ha fatto perdere i peli, e questo è dato da fare. È successo anche con la scrittura oggi tanto così sostenuta, e giustamente sostenuta. Quindi che ci siano o ci saranno delle perdite come delle acquisizioni lo darete scontato. Non sappiamo ancora bene quali saranno le une le altre, possiamo prevederle, studiarle, e ben vengono studi anche come quello di cui ci stiamo occupando in questa trasmissione. Detto questo, ho un po' paura dell'atteggiamento che rimpiange il meccano perché abbiamo gli schermi interattivi. La manualità di generazioni passate, costruita su giochi apparentemente più, non andrebbe mitizzata rispetto a un orizzonte che conosciamo così poco. Le tecnologie cosiddette interattive sono appena arrivate, conosceranno evoluzioni che ora facciamo fatica a sospettare. E dunque anche l'evoluzione della nostra manualità è in fieri, e piuttosto che costruire e immaginare scenari apocalittici dovremmo invece comprendere ancora meglio quali dinamiche si stanno aprendo per le nostre manualità. Non è vero che sono finite, non è vero che la manualità cederà il posto a una macchina che prima o poi sarà il trionfo dei correttori automatici e quindi non sapremo più neanche le regole dell'italiano. Queste forse sono visioni un po' pessimistiche che non tengono conto di quello che potrà essere un futuro aumentato dalle tecnologie. Sai, forse bisognerebbe che gli accademici guardassero più telefilm. Io in questi giorni sto riguardando la serie Continuum, che è una serie di telefilm, la sta trasmettendo Netflix, che sta facendo vedere il solito discorso dell'interferenza fra passato, presente e futuro. A un certo punto, una certa storia, alcune persone del 2070 arrivano ai tempi nostri. E ci rendiamo conto che nella non mutazione esteriore sono persone come noi, ma sono già universi avanti, parlano di tecnologia già di 4-5 generazioni avanti, ad esempio hanno dei microchip con componenti biologiche, non hanno più carta, non esiste più carta in quel mondo, non esiste più, ci si cura automaticamente perché abbiamo dentro dei microchip che ci testano, insomma. capire che le forme di evoluzione attraverso gli schermi sono molto più complesse e sono molto più avanti rispetto a quello di avere dei giochetti per passare il tempo che abbiamo adesso. O non sei d'accordo? Sono d'accordo, certo la fantascienza, diciamo, ha secondo me più il compito di aiutarci a pensare che le cose potrebbero essere diverse da come noi lo conosciamo, che non prevedere effettivamente come sarà il futuro. E quello che dici, secondo me, lo si può rileggere anche nella percezione, a mio parere, un po' distorta che ha avuto la diffusione di Pokémon Go. Tutti erano pronti a ridere attorno a questi gruppi di ragazzi, in realtà non solo ragazzi, che andavano a schiantarsi contro il palo della luce o la cassetta della posta perché erano impegnati a cercare Pikachu o qualche altro animaletto virtuale nel loro telefonino. Pochi, e riconosco tra questi in Italia il merito all'antropologo e amico Marino Niola, hanno saputo sottolineare come nel gioco in generale e anche nei giochi interattivi, diciamo, che ci portano nel mondo digitale, c'è spesso un'anticipazione del mondo che verrà. Prova a immaginare se al posto dei vari animaletti di Pokémon Go ci fossero, così come probabilmente ci saranno, indicazioni stradali, di siti culturali, immagini più o meno interattive che danno informazioni all'utente. Non sto disegnando questo come un mondo auspicabile, ma certamente come un mondo possibile nel quale sarebbe bene imparare a vivere o cominciarlo perlomeno a studiare, perché è giusto costruire l'autonomia dei bambini, ma costruire l'autonomia dei bambini nel mondo che loro vivranno, non nel mondo che non hanno mai conosciuto. Grazie Stefano Morigi, ci sentiamo tra un istante, dopo la pausa. Melog, cronache meridiane. Meccano è il nome di un set per la costruzione di modellini, costituito originariamente da barrette metalliche perforate, viti, dadi e bulloni, che permette la costruzione di modellini funzionanti e di apparecchi meccanici. È stato inventato e brevettato nel 1901 da Frank Hornby, commesso di Liverpool. Il Meccano, nel corso del Novecento, ebbe così tanto successo che tra il 16 e il 63 venne pure pubblicata la rivista Meccano Magazine. Nel corso degli anni successivi, il prodotto è stato più volte riprogettato. Attualmente è in commercio una versione di Meccano basata su componentistica di plastica, destinata a bambini in età prescolare. Certo che non è più la stessa cosa, lo ricordo il Meccano che l'avevo a mia volta ereditato dai miei zii, quindi una generazione precedente alla mia. Erano tutti ragazzi nati a cavallo fra gli ultimi anni della guerra e il primissimo dopoguerra, e avevano il Meccano come loro giocattolo preferito. Il Meccano che ancora hanno barrette di metallo, con viti, con bulloni, con la chiavettina inglese, con le molle, con le rotelle, con i giunti cardanici, che ci permetteva di immaginare e costruire delle macchine. Sulla nostalgia del Meccano si è articolata la prima parte di questa trasmissione, da una parte professore che denunciava la perdita graduale della funzione di collegare le mani al cervello, di saper fare delle cose con le mani, i bambini non scrivono più con la penna e quindi perdono delle parti importanti delle loro abilità, tesi in qualche maniera costruita su piani diversi, diciamo, se non non condivisa naturalmente poi dal filosofo della scienza Stefano Morigi, che dice che in fondo è la tecnologia che ci fa evolvere, noi evolviamo assieme alle macchine che costruiamo e non ci devono essere nostalgie del passato. Però adesso vorrei fare ancora un passo avanti. Fra le maniere che abbiamo noi di muovere le mani e di organizzare la nostra vita, di capire, perimetrare e misurare il nostro mondo, è quella appunto di giocare. Sui giochi dei bambini, tra cui esistono anche quelli naturalmente fatti disegnando, scarabocchiando, per anni mi hanno dato fogli di carta usata da scarabocchiare dietro, li usi per scarabocchiare, ci davano i colori, stai buono, non rompere le palle, disegna, scarabocchia, oppure si facevano dei giochini fatti disegnando e lavorando appunto con carta e matita. Proprio a complemento di quanto detto, abbiamo un esperto in giochi che è Andrea Angiolino, lo ricordate, l'abbiamo chiamato spesso, è l'autore di Giochi innanzitutto, è giornalista, ha scritto un testo fondamentale insieme a Beniamino Sidoti, che è il Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli. esiste una memoria ormai letteraria di tutti i giochi del passato. Man mano che ce li dimentichiamo, vengono aggiunti come le parole al dizionario dei giochi. Andrea Angiolino ha scritto adesso un libro pubblicato da poco, Giochiamo insieme con carta e matita, edizioni Sonda. E di questo parliamo oggi con Andrea Angiolino. Buongiorno Angiolino. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, sei d'accordo anche te che si sta perdendo delle facoltà di conoscere il mondo, di fare esperienza, non usando più carta e matita e nemmeno, quindi, questo è il tuo campo, giocando con carta e matita? Ma in realtà ci si gioca ancora molto. Io lo vedo anche con mia figlia di 8 anni. Grazie, con un padre come te è logico. No, ma dalla stessa scuola riporta poi quei giochi tradizionali, fiori, frutta e città, l'impiccato o battaglia navale, che fra l'altro vengono fatti sotto il banco a volte o in ricreazione. Ricorda a chi ascolta come funzionavano questi giochi. Battaglia navale, una griglia quadrettata, io nascondo delle navi e l'avversario, dando le coordinate delle caselle, B3, C4, cerca di colpirle. Era divertentissimo, un gioco che ancora mi affascina a pensarlo. Esatto, e le coordinate cartesiane le abbiamo imparate tutti a quel modo, giocando sotto banco anziché ascoltando. C4, affondata. Esatto. Ma poi bisognava dire, scusa, una cosa che mi è sempre rimasto il dubbio. Le navi erano da un quadratino, 2 quadratini, 3 quadratini e avevano più importanza a seconda di quanti quadratini. Il mio dubbio è sempre stato, quando tu mi colpisci una nave, devo dirti se è da 3, da 2, da 1 o non devo dirtelo? Qual è la regola? No, nella variante più comune non si dice la lunghezza, si dice solo o colpito o mancato. E se no è troppo facile. Quando però è stata colpita del tutto si dice affondata, quindi la prima volta che colpisco la porteria da 5 io non so che è da 5. Quando però completo il quinto quadretto l'avversario mi dice affondata e so che... Quindi la regola è quando tu colpisci un bersaglio cominciare a sparare un po' intorno, sulle coordinate intorno, vedere che succede. Esatto, fra l'altro la cosa che io registro nel libro... Noi lo giochiamo in maniera un po' casuale, sono molto belle le varianti francese in cui si dice colpito, affondato oppure adiacente, così si danno degli indizi da un gioco più di ragionamento, oppure la variante americana in cui si sparano serie di 7 colpi e l'avversario non dice quali sono andati a segno ma solo quanti. Io mi segno tutta la raffica, so che 3 colpi sono andati a segno e poi un gioco di deduzione di raffica in raffica cerco di capire quali possono essere e di mandare i colpi in posti dove mi diano. Quindi l'uno è più affidato al tipo una roulette russa, che tu non sai dove hai colpito e fai un bel calcolo. L'altro è più semplificato, perché se è adiacente in 4 colpi ne ricolpisco un'altra, se è adiacente la prendo, certo, di sicuro. Giocando su se ho 2 adiacenze posso capire se è lo stesso o no. C'è comunque un gioco un po' più logico di quello che... Ma serviva per passare il tempo a scuola quando ci si annoiava, è chiaro. Anche noi lo giocavamo di nascosto. Sono gli altri, appunto, fiori, frutta e città, si scelgono delle categorie che magari fra adulti possono essere calciatori, marche di birra, automobili, e fra bambini possono essere amici, parenti, di solito sono fiori, frutta e città, fiumi e cose. Dopodiché si sorteggia una lettera e ciascuno deve scrivere una parola che inizia per quella lettera. Così il gioco è molto semplice, poi ci sono le varianti, quelle in cui contano solo parole che gli altri non hanno scritto o quelle in cui valgono più punti, tanto meno persone le hanno scritte, ma anche lì poi si può approfondire. Poi vedi, qui sono tutti giochi che tu puoi fare lo stesso, anche se la maestra ti sequestra lo smartphone, anche se con una penna, con una matita e un pezzo di carta si può comunque giocare e bisogna comunque scrivere, quindi bisogna aver mantenuto la manualità nel saper scrivere, perlomeno, perché basilarmente qualcosa comunque devi scrivere sulla carta, devi saper tenere una penna in mano. Certamente, fra l'altro io sto citando i più conosciuti, in realtà il libro ne cataloga 50 con varianti, alcuni sono molto meno noti e alcuni sono veramente di abilità manuale. Il birocalcio e la biropista, per esempio, richiedono di mettere una penna biro sul foglio, di dare un bel colpo secco sul retro della penna e la penna fa una riga sul foglio, che è il tratto che io compio della pista al mio turno, oppure il lancio del pallone verso la porta avversaria. Qui siamo davvero davanti all'abilità manuale. Ma qui proprio la penna biro diventa l'oggetto del gioco fisico, l'hardware non è più l'oggetto per scrivere, ma proprio la biro diventa il gioco, che poi cioè, esistono giochi pericolosi, noi ce le tiravamo pure le penne biro, però non è questo, o la usavamo come cerbottana, non credo che sarà nel tuo manuale dei giochi l'uso improprio della penna biro. In realtà nel dizionario dei giochi, che è molto più ampio e vasto, abbiamo registrato anche l'uso a cerbottana con chicchi di riso, palline di carta e altri usi della biro ludici. Qui siamo in questo libro soprattutto sui giochi che prevedono due o più avversari, condizioni di vittoria, un concetto di gioco diciamo più ristretto, più affine a quello dei giochi da tavolo, dove comunque la manualità impera. Per il calcio abbiamo il subbuteo, ma poi c'è lo Shanghai con i bastoncini, c'è Jenga. Ecco, lo Shanghai è un tipico gioco in cui devi saper usare le mani, perché è complicatissimo estrarre il bastoncino senza far cadere gli altri. Se non sai usare le mani è difficile. Infatti è un ottimo allenamento, perché poi richiede precisione, ma lo stesso subbuteo non richiede di tirare violentemente colpi di dito sui calciatori, richiede di essere precisi, saper fare begli effetti. Dal punto di vista della manualità, vabbè, si gioca da millenni con le noci, diventati gli stessi giochi di biglie o giochi di tappi o di monetine o di doppioni delle figurine. Però anche nel gioco da tavolo moderno, contemporaneo, bisogna saper sviluppare un'abilità manuale spesso non banale di coordinamento. Ecco, dai tuoi indicatori, perché essendo un esperto in giochi oltre che un creatore di giochi conosci un po' il mondo, rimangono delle attività legate ad adulti nostalgici o appassionati come te appunto, o ancora i bambini conoscono questi giochi, c'è una tradizione orale questi giochi? Perché se andiamo avanti così la prossima generazione se li dimentica tutti di andarsi a comprare i tuoi libri, se no non saprà nemmeno l'esistenza, perché i genitori non lo faranno più questo gioco, a scuola nessuno più sarà un capostipite di una partita di battaglia navale o di Shanghai o di qualsiasi altro gioco con carta e penna. Ma in realtà diciamo che siamo in un periodo consumista, magari la battaglia navale si ritrova in scatole lussuose ed elettroniche, ma addirittura siamo arrivati al paradosso che è stato tratto un film dalla battaglia navale, come dal Monopoli. Questi giochi magari vivono in forme più commerciali. Il subbuteo non è altro che il calcio tappo reso molto più bello, lussuoso ed efficiente. Diciamo, questi giochi si perpetuano fino a vedere paradossi come il gioco della bottiglia in scatola, oppure un 2-3 stelle in scatola. Com'è il gioco della bottiglia in scatola? Sì, e cosa ci mettono nella scatola? La bottiglia. Una bottiglia parlante che ruota e poi lei stessa dice quali sono le penitenze, le cose. Dire, fare, baciare, lettera, testamento. Esatto, però lì siamo un pochino una degenerazione. Senti, le penitenze finivano con lettera e testamento? Sì. Perché nella mia. In Umbria c'era anche lettera, testamento, orologio. La penitenza orologio che ti davano un morso sul polso che sembrava l'orologio. Esiste nei tuoi manuali questa cosa? Se no te lo dico. No, mi manca, ma alla prossima edizione cercheremo. Lettera, testamento, orologio. L'orologio ti davano un morso sul polso e facevano l'orologio con il polso. Mi sembra interessante. Io la pratica l'ho vista fare, ma non all'interno di un dire, fare, baciare. Era sì, lettera, ve lo posso dire. In Umbria, negli anni, primi anni 60, era dire, fare, baciare, lettera, testamento, orologio. Ti ho dato un elemento in più. Prendo doverosamente appunti. Comunque il gioco da tavolo è molto vivo, non è stato ucciso dal videogame, così come il libro non è stato ucciso da cinema e fumetto e così via, e quindi queste cose si continuano a giocare.